I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Chiuso, almeno per ora, il capitolo adeguamento delle pensioni dopo la sentenza della Consulta, torniamo a occuparci dello stato di salute dell'economia italiana. I segnali positivi non sono mancati. Ieri il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto la stima sulla crescita della nostra economia per quest'anno allo 0,7%, dopo il dato positivo sul PIL italiano nei primi tre mesi, quello che tecnicamente ci ha portato fuori dalla recessione. E altri dati positivi sono arrivati ieri sul fronte delle nostre esportazioni. L'avanzo commerciale nei primi tre mesi ha toccato i 7,8 miliardi e le esportazioni sono andate praticamente bene dovunque, fatta eccezione per gli ovvi motivi dell'embargo con la Russia. Negli Stati Uniti più 44% a marzo rispetto a un anno prima, nei paesi OPEC più 18%, in Germania più 6%, in Spagna più 8%, in Gran Bretagna quasi il 14% di export in più. Cosa manca all'appello per poter dire che il 2015 sarà l'anno veramente della crescita? Beh, i soliti consumi interni, la spesa degli italiani, che qualche segnale di risveglio l'ha dato nei primi tre mesi dell'anno, ma che rischia di non essere sufficiente, anche perché alla fine conterà moltissimo il peso della tassazione complessiva e, come ha scoperto il Sole 24 Ore ieri, sapere che le IRPEF addizionali di carattere comunale e regionale anche quest'anno aumenteranno per 1 miliardo in più rispetto all'anno scorso rischia di vanificare qualunque propensione al consumo delle famiglie italiane. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Perciò del massimalismo e della mistica del conflitto tra capitale e lavoro parleranno di paternalismo, ma la gratifica che il patron della Luxottica, Leonardo Del Vecchio, ha deciso di concedere oggi ai suoi dipendenti italiani è un fatto ben più che positivo. Il fondatore del Colosso, che è una delle cosiddette multinazionali tascabili del quarto capitalismo italiano, ha deciso di attribuire come bonus una tantum 9 milioni di euro di azioni pari a circa 140.000 titoli da erogare gratuitamente al personale. È un gesto che coincide con il compleanno del presidente del gruppo, che compie appunto 80 anni. I costi dell'intera operazione saranno tutti a carico della finanziera di famiglia, la Delfin. Il messaggio con cui il patron della Luxottica ha annunciato la decisione è questo: un ringraziamento dal cuore ai dipendenti italiani del gruppo, i veri artefici del successo della nostra azienda. Insomma, non è paternalismo, è un contributo concreto ad aiutare il clima di fiducia che serve a rilanciare il paese ed è un gesto che peraltro va nella direzione di una collaudata stagione di accordi per migliorare il welfare aziendale del gruppo. La Luxottica infatti ha fatto da apripista a una serie di intese che hanno consentito di abbattere i costi degli acquisti per il personale, hanno creato bonus per coprire i costi di istruzione dei figli, altri bonus per contribuire in casi di particolari esigenze sanitarie. Insomma, un modo moderno di fare anche relazioni industriali e un modo assai concreto per creare consenso e pace sociale. Anzi, dimenticavo, è anche una sfida per i suoi colleghi imprenditori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.